Commissario Montalbano. L'odore della notte di Andrea Camilleri. Sceneggiatura in 10 puntate di Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Regia di Alberto Sironi. Sesta puntata. Per arrivare a Calapiano scelse di fare la strada più lunga e meno agevole, quella che aveva sempre pigliato le poche volte che c'era andato, perché gli permetteva di rivedere quella Sicilia che di giorno in giorno scompariva, fatta di terra avara di verde e d'omene avari di parole. Dopo 2 ore che viaggiava, si trovò da re a una fila d'auto che procedeva lentissima sull'asfalto malandato. Un cartello scritto a mano e appezzato a un palo della luce intimava: procedete a passo d'uomo. Un tale, vestito burgese e con un friscaletto in bocca, sparò un fischio d'arbitro isando un brazzo. La macchina che precedeva quella di Montalbano si fermò di colpo e così dovette fare il commissario. Passata una mezz'orata, Montalbano poté ripigliare il viaggio. Si ricordava che l'azienda agricola distava un 4 chilometri da Calapiano. Si venne a trovare su una strada stretta, sì, ma asfaltata e tenuta bene. La grande casa colonica apparse dopo una curva. Dal camino nisceva fumo lizzo, segno che qualcuno in cucina stava preparando da mangiare. Scinnì, si carrecò di cannoli e dolci, giasì in casa e andò in cucina. Franca, la sorella di Mimì, gli voltava le spalle e non s'addonò che lui era giasuto. Frank! Salvo! Che grande sorpresa che mi hai fatto! Ciao, come stai? Bene! Hai saputo del matrimonio di Mimì? Che è stato rimandato? Sì, mi ha detto stamattina. Gli altri dove sono? Il grande a Travagliare. E Giuseppe e Domenico oggi sono a scuola, hanno il tempo pieno. Invece François dovrebbe tornare fra poco. Lo va a pigliare un ragazzo che lavora qua da noi in stagione. Ho capito. Senti, devo dire una cosa. Quando ti ho portato François, no, ti ricordi? Sì, sì. Non ti ho detto che la mamma carina aveva messo da parte una somma. E gli contò la faccenda del libretto e dei soldi dal notaro. Non ne aveva mai accennato prima, né con Franca né con suo marito Aldo, per la semplice ragione che se n'era sempre scordato. Durante il racconto, Franca andava e veniva dalla cucina alla camera, con il commissario appresso. Alla fine, tutto il suo commento fu: hai fatto bene. Mi fa piacere per François. Quando sentì un'auto trasire nel baglio, corse fora. Riconobbe subito François. Dio, quant'era canciato! Non era più il picciolino che si ricordava, ma un ragazzino bruno, riccioluto, occhi grandissimi e neri. E nello stesso momento François lo vide. Salvo, sei tornato! François, come stai? Rimani a dormire? No, non posso. Ti devi fare vedere una cosa. Sì. François lo portò dal re la casa, dove c'era un ampio prato verde d'erba medica. 4 cavalli pascolavano. Roberto! Roberto arrivò conducendo per le briglie una cavalla giovane, criniera bionda, che isò la testa e si mosse verso il picciottiergo. Ehi! Quando arrivò a tiro, François pigliò la rincorsa, con un balzo montò a pelo sulla bestia, fece un giro, ritornò nel re. Ti piace? È bellissimo. Chi l'ha regalata, papà? Chi? Papà. Ah, papà. Vieni, vai. Ah, ecco qua. Ti devi dire un segreto. Dimmi. Quando diventerò grande voglio fare il poliziotto come a te. Sì. Sì. Andiamo. Appena dintra l'ufficio, Montalbano si dedicò all'affannosa ricerca di un foglio e una busta che non avessero l'intestazione del commissariato. Illustre signor questore, spero che lei abbia già ricevuto la mia lettera anonima con allegata fotocopia della ricevuta di 300 milioni di vecchie lire del notaio Carlentini. A questa nuova lettera allego le fotocopie di tutti i documenti relativi alla regolare adozione di quel bambino che lei è arrivata ad accusarmi di aver sequestrato. Da parte mia, considero chiusa la questione. Se lei ha desiderio di tornare sull'argomento, la preavviso che la querelerò per diffamazione. Salvo Montalbano. Ha chiesto di me, dottore! Vieni. Allora, Catarella, tieni. Allora, piglia questi soldi, accatta un francobollo e spedisci questa busta. Dottore, ma dei francobolli qua in un ufficio ci stanno un ticket. Sì, sì, lo so, ma io questo francobollo voglio pagare di persona personalmente. Chiaro? Mi raccomando, dottore. Bravo, mi raccomando. Fazio! Eccomi. Oh, novità? Sì, commissario. Devo ringraziare un amico mio della polizia aeroportuale, che ha un amico che è zitto con una picciotta che travaglia a Lazio. Sì. Risulta che Pellegrino aveva un biglietto rilasciato dall'agenzia Icaro di Vigata per un volo in partenza alle 16 per il 31 di agosto. Come ci ha detto lo zio. Esattamente, però la vuole sapere una cosa, commissario? Quel volo non lo pigliò mai. Sicuro? Vangelo, Allora, movimenti Giacomo Pellegrino il 31 agosto, cioè il giorno prima di sparire. Alle 9 incontra lo zio. Alle 14 va all'aeroporto. E si cambia in biglietto. Che fa durante l'intervallo? Non l'ho messo. Ecco qua. Pronto, chi parla? Ah, pronto, signorina Cosentino. Montalbano sono. Senta, mi scusi se la disturbo. Ho bisogno di un'informazione. Mi dica. Sì. Dunque, noi non sappiamo più nulla di Giacomo Pellegrino dal 1 settembre. Oh, ma lei si ricorda se il 31 agosto venne regolarmente in ufficio? Commissario, non mi posso scordare quelle giornate, perché me le sono passate e ripassate nella memoria. Il giorno 31, Pellegrino arrivò in agenzia sul tardo, verso le 11, andò via quasi subito, disse che doveva incontrare un cliente. Nel dopopranzo è tornato, potevano essere le 4:30, ed è rimasto fino all'ora di chiusura. Ho capito, la ringrazio molto e complimenti per la precisione dei suoi ricordi, eh? Arrivederci. Arrivederci. Allora, alle 9 incontra lo zio e poi se ne va in ufficio. Poi verso l'ora di pranzo affitterà una macchina e se ne va all'aeroporto e si cambia il biglietto e poi ritorna in ufficio. Sì, ma perché arma tutto questo casino? Per non essere rintracciato facilmente, d'accordo? Ma da chi? E soprattutto perché? Il ragionier Gargano aveva mille motivi per sparire. Ma Giacomo Pellegrino, che motivo ci aveva? Buongiorno commissario. Buongiorno. Io ho fatto quelle telefonate, eh. Ah, e allora? Ma risulta che Pellegrino abbia dormito da nessuna parte. Ah, ha affittato una macchina a Montelusa la mattina del 31 e l'ha riconsegnata dopo pranzo alle 4. L'impiegata dell'agenzia, che è una picciotta abbastanza sveglia, mi ha detto che più o meno il chilometraggio potrebbe corrispondere ad un viaggio a Palermo e ritorno. Beh, combacerebbe, no? Sì. Ah, e mi ha detto pure che Pellegrino ha fatto esplicita richiesta di avere una macchina con un bagagliaio capiente. E per forza, doveva portare appresso le due valigie. Adesso la cosa da scoprire è una sola. Dove ha dormito Pellegrino la notte del 30? Esattamente. Lei che ne pensa, commissario? E che ne so. Ma che stronzo. Che è successo, commissario? Sali in macchina, cammina, vieni da dietro. Sì. Montalbano e Fazio principiarono a correre nelle rispettive macchine verso Montelusa, verso la villetta appena finita di costruire di Pellegrino. Il commissario si mosse verso l'ulivo abbattuto. Hai capito perché mi è venuta la raggia, sì? Andiamo dentro. L'arbolo aveva perso il grosso delle foglie che ora stavano ingiallite, sparse sul terreno. Montalbano, tirando fuori un ricco assortimento di grimaldelli e chiavi false, armeggiò con la serratura del cancello e la raprì abbastanza facilmente. Lui e Fazio ciasirono. Un grande salone, completamente vacante, s'appresentò ai loro occhi. Ecco dove ho dormito già con Pellegrino una notte per il 30 e il 31 agosto. Lo vedi? Qui si sarà fatto la barba. Commissario? Ci sono delle valigie. Dove le valigie? I valigioni, commissario. Sono le sue. Qui ci stanno dormendo meglio. Sono vestiti, commissario. Ma questo che ha fatto? È partito senza portarsi nemmeno un paio di mutande. Ma dove cazzo deve andare allora questo? Nel muro di Darré, nel mezzo di una specie di ripostiglio per gli attrezzi, Fazio aveva finalmente trovato le due grosse valigie di Pellegrino. E particolare, non indifferente, entrambe non erano chiuse a chiave. Il commissario Montalbano, l'odore della notte, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo. Musiche originali di Franco Piersanti. L'odore della notte di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio, posta elettronica, sceneggiato, chiocciolarai.it.